chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Perdiamo i pezzi. Eh sì, perdiamo i pezzi, siamo venuti senza Scarceranda. Come sapete, Scarceranda c'ha tutta la scaletta dentro, tutte le scalette. Dal 2000 è quello che era, addirittura il 1999 la prima, poi saltò un anno, boh, non ci ricordiamo, dovremmo riguardare tutta la rassegna delle Scarceranda. Comunque le Scarceranda nostre, quelle che prendiamo qua in radio ogni novembre, dicembre, appena esce, sono un documento, non si sa quanto è importante. Probabilmente nulla. Però te che ci stanno scritte tutte le scalette di Next Time prima, di 25 O'Clock dopo. Magari qualche volta 5 pezzi, magari qualche volta 20. Come in questo caso l'abbiamo dimenticata, vabbè. Ce la siamo dimenticata altrove, non... Quindi pezzettino di carta. Poi ci siamo persi il pezzo di Dirty Job che annuncia che 25 O'Clock sta per cominciare. E non si riesce a chiudere il cerchio, insomma, sempre una tribolazione. Però lasciamo fuori tutte queste cose, perché è partito l'avviso di disconnessione, sono cute, per cui non ci si pensa più a queste robe. Lasciamo tutto fuori, lasciate tutto fuori. La diretta sugli 87.9 della banda romana nozziale, Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info, il sito, lì ci sta pure. Ascolta la diretta, l'ascolta di streaming, lo facciamo pure noi tanto... Tanto che appunto l'FM alle volte in tante zone è un po' disturbata, abbiamo imparato sentire in streaming pure dalla macchina, insomma. Però l'FM ci teniamo, ci teniamo moltissimo alla radietta dentro l'officina, alle cuffiette davanti al computer, alla radio in macchina, dei tassinari. Alla radio che stava dentro i locali, nelle birrerie, nelle palestre. Diffondete Radio Onda Rossa tramite l'FM, se proprio non se può. O se state lontani dalla potenza della nostra antenna, c'è lo streaming. Ma questa roba qui c'è perché sottoscrivete per la radio, sostenete la radio da tanti e tanti anni, perché come sapete Radio Onda Rossa non vive. Di pubblicità non c'ha, sovvenzioni dei partiti o partitini, quello che la sovvenziona, il fatto che la sovvenziona è che tutte voi e tutti voi ci siete vicini e con venendo alle iniziative, con i crowdfunding, con tutto quello che vi pare, avete fatto vivere fino ad oggi Radio Onda Rossa e la farete vivere ancora. Noi ce la mettiamo tutta, ci mettiamo il nostro impegno, il nostro lavoro, la nostra fantasia. Le cazzate che facciamo di tanto in tanto, come quelle di stasera. ci siamo, quindi 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. 25 o'clock@chiocciolandarossa.info per disturbare il sottoscritto alla mail. ondarossa@chiocciolandarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. Poi ci stanno pure i social, io lo ricordo, è una frase fatta ormai, ma sapete quanta stima abbiamo, ci piace il tam tam, i segnali di fumo in tutti i sensi. Il recapito di Radio Onda Rossa, fatelo squillare, tanto non si vede la luce, dicevamo poc'anzi, difficilmente risponderemo, però fatelo squillare uguale. E mentre gira il jingle di 25 o'clock, gentilmente offerto da quel personaggio, quell'entità, sicuramente senza spazio, ma sicuramente navigatore, così, attraversatore dei tempi, delle epoche, delle ere storiche, che è Velester. La scorsa settimana, primo febbraio, abbiamo dimenticato, da una parte dimenticato, dall'altra parte proprio non si poteva, avevamo anche ricordato di farlo, ma c'era appunto l'impossibilità di mandare tracce dal PC di regia, e quindi era fuori uso, quindi così ci siamo dovuti adattare esclusivamente con i CD, con i dischi. Però il 30 di gennaio del 2021, in un incidente di montagna, ci ha lasciato Claudio Acciarino, e c'è una traccia che la ricorda, uscita proprio in questa occasione. Noi si Cold Bloody Snow. In memoria di Claudio Acciarino. A 25 o'clock, Radio Onda Rossa, da capo. Thank you. Straziante lutto anemico, precoce, senza avvertimento. Dal trasvolare in cielo lo schianto nell'abisso. Grovigli di cordoglio corrodono lo stomaco. A metà tra l'invincibilità e la stasi del dispiacere. Le nostre montagne oggi si inchinano a te per chiederti scusa. Dammi la mano, sorella mia. Andiamo a suonare un altro concerto. O guardiamo l'infinito da quassù. Ciao, Cla. Got it, roll it, light it, smoke it. .22:59, quindi dopo questo ricordo dovuto, Claudia ospite più volte qui in radio e a 25 o'clock. Claudia che ci ha regalato, anche grazie all'organizzazione di tanti concerti, anima di tante cose, anima occulta di tante cose che si muovevano a Roma nel campo della scena dei suoni sghembi, come amava definirli lei. Wake up and blaze a clip in the ashtray with the room smelling like an Amsterdam cafe. I'm supernatural, I know that you heard of me. I like to blaze trees to my. E quindi il ricordo in Osira. Let's break for lunch. Send shorty to the store for blunts. Let's go. If you got it, then life that should smoke it. E noi invece questa sera, questa notte l'abbiamo preparata tutta all'insegna dell'hip hop, del crossover, delle manipolazioni delle basi rap. Come and blow with me. E quindi Supernatural da Marion, Indiana. Come and smoke with me. Me and Mary is scary when I busted a cherry. She's legendary. Roll up. E come vi dicevo, questa notte andremo avanti così, da capo. Roll up, Supernatural. Yeah. You got it, roll it, light it, smoke it. Roll up and blaze one to this. That bright green tree with the pungent mist. Some call it cannabis. Old folks like to call it reefer. I'm a believer in the finest sativa. Paint the White House black and burn that bush. I sat and smoked out with a king named Kush. It took me some time before I realized that if I had it my way, then I would just legalize it. the Bill Bixby, the 360. I was hitting the bong when it first hit me. I said, I'ma do a song about my favorite flame. She's so damn fine and her name is Mary Jane. Since the first day I hit her, I ain't never been the same. Got feelings for her that I really can't explain. Wake up and blaze a clip in the ashtray, with the room smelling like an Amsterdam cafe. I'm supernatural, I know that you heard of me. I like to blaze trees till my eyes turn burgundy. It's 4:20, let's break for lunch. Send shorty to the store for blunts, let's go. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. Roll up, push them trees. Say roll up, come and blow with me. Say roll up, push them trees. Say roll up, come and smoke with me. Me and Mary is scary when I busted a cherry. She's legendary and her head trips very. But man, she make you feel so good if you let her. But sometimes it's a hassle when you wanna go get her. Every nigga in the hood, they all know her well. Know her smell, know she got the coldest spell. No matter where you go, she's close by, trying to see which person she can get most high. Dude, the chick don't make a difference to James. She gets the rocks off when she's trying to fuck with your brain. She got you tripping so hard, but you gotta maintain. Yeah, she's giving more illusions than David Blaine. When she's gone, we kick rocks and sing in the blues. Cause we want a little more and I could never refuse. She's my weakness, I wish I could beat this. Got me all choked up, smoked out on the sweetness. Roll up, push the tree. Say roll up, come and blow with me. Say roll up, twist them trees. Say roll up, come and smoke with me. Roll up, twist them trees. Say roll up, come smoke with me. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. Purple haze, gamma radiations. This flower was made for mental meditation. Hate when I be running out of my medication. Right around the time I feel the sensation, but I know it quickly just to cop one. Send a smoke signal to Dr. Green Thumb, cause he's known to have those greens when you get it. That smells like it's smoking it before you even let it. It sticks to anything that it touches. Rolled in backwood, Philly switches and dutches. Hit it 2 times to the right and pass mine. If you ask me, yo, it should be a pastime. Me and my crew puff Pepe Le Pew. Rolling blunts, fatter than Winnie the Pooh. Rock out to this, till you can get no higher. Only you can prevent forest fires. Roll up, twisting trees. Roll up, don't smoke with me. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. If you got it, then life that shit, smoke it. That's right. Me, Supernet. Khalil, we blazing that shit up. Who the master? From the east to the west. Smoke your kush, never cess. Yeah. We talk about Mary. Get high, bitches. Tongue. Yeah. You say you want these to be easy. 23 e 11 minuti, consolidated da San Francisco, California, un collettivo di quelli militanti che ponevano la musica come strumento, come mezzo di propaganda. No climb, I'm unfolding desires and my breathing controls got me weightless. Every molecule's in its place for escape. Come era tipico fare negli anni 90. Obstacles erased as my solitude are bathing, creating optimal vibrations. Nella fattispecie da un lavoro del 1993. You Suck featuring no drugs for this round. The Yes Girl. Jack Dangers remix, quindi un lavoro, un EP di remix. E poi Consolidated sfodera quello che è il loro armamentario, il loro repertorio preferito, cioè quello dell'anticapitalismo, dell'antiomofobia, dell'antirazzismo, dei diritti degli animali, dei diritti delle donne. E la loro professione vegetariana o vegana. Come tutti i collettivi, Adam Sherbun e Mark Pistol, stiamo parlando di pop bianco, That's my formula for finding peace and finding me so I can finally be free. I'm finding reason and diving. Erano accompagnati, sono stati accompagnati in questi moltissimi anni. Loro sono fondati nel 1988 fino ai giorni d'oggi. E quindi una band attraversata da tantissime collaborazioni. Ora sì, invece, dall'altra parte, sull'altro lettore. The Myths, un'altra generazione, ma tematiche che si rincorrono costanti a quelle dei Consolidated, riaggiornate, attivate per i tempi più recenti, per questo decennio da capo. Quindi dai, far from the savage and my heart is pure despite all the damages I brought forth. Yo, yo, you got anything? Yeah, what are you looking at? Anything? Anything what then? Just anything. No, these are my boys. I lie, closed eyes, mind open, in my prime, focus, defiant, got total control and hold of my mind, undergoing emotional climb, I'm unfolding desires and my breathing controls got me weightless, every molecule's in its place but escaping, impossible is now the most illogical of statements, obstacles erased as my solitude I bathe in, creating optimal vibrations, raising my spiritual, the physical is now immiscible and sound is somehow visual. Bouncing around so mystical, astounding. No doubt about it, no drugs for this round trip. Just a trust in the know-how and lust in no boundaries. A love for a substance that once has been found is resounding of your surroundings. What you put out comes back like a boomerang. I'm floating through time. Yet time is a fallacy that I'm not confined to. Just like gravity, how can I be? If I'm traveling the galaxy, unraveling the planetary anatomy magically, mapping the tapestry of life on my soul. So I can find it when I finally go home. It'll be inside of me, silently shining bold. The confines of hindsight, I divided them broke. I'm inspired, I can reach higher than once thought. And what's more, my thoughts are much more pure and in order, but don't conform. Metaphor, water, explore the source, absorb the euphoria. That's my formula for finding peace and finding me, so I can finally be free. I'm finding reason and diving in deep. At first it was blinding, but in time I could see. I breathe deep for a deeper connection. Increase perception, decrease deceptions. I reflect and I'm pleased, I respect it. I can see everything's geometric. It's just in perspective, my senses developing. And now sentences are irrelevant. Ramblings I'm now channeling on the level that you can't imagine. And breaking barriers, I'll be chatting with the animals instead of yamming them. Far from the savage and my heart is pure despite all the damages. I brought forth my anguish, transformed it to happiness that I'm always tapped into and ravishing. I managed to deal with it and do what I needed to move on to release it and heal up and reveal that I'm real strong. And my thesis, my total belief in my freedom. There's no in between, there's just being. G's, motherfuckers, I'm a son of a gun. Black master of any trade under the sun. Talk sharp like a razor blade under the tongue. Clear my path and come get your captain hung. Trying to breathe like black, a collapse your lung. Young chunk, you could choke off the web I spun. I done cleared them out from the threat I brung. You done heard about what set I'm from. My nigga, word of mouth, little rule of thumb. Y'all better bow down when a ruler come. I'm a real hood nigga, not a hoodlum. The way Thor put it down, be confusing some of y'all. Cats can't walk while chewing your gum and all. What a keyboard gotta do with a drumming on. School them on stage like I'm doing a seminar. Professional type, I'm adjusting my mic. Go to war, kid, I give you any weapon you like. Give you something to run from. Bust off your dumb dumb. Stop, kid, that hot shit, you know where it come from. It's Philly worldwide phenomenon. And reinforcing that shit is my 9 to 5. And when I finish making you recognize, I'm getting at a couple civilized women that's trying to ride. You were waiting on the border, come off the all. You wanna get the bitches up off the wall just to see you smile and enjoy yourself. To keep you in health, this for all of y'all. I'm quick on the draw like Black McGraw. And I can't tell what y'all cats rap before. My name BG's and I'm back for more. See me get more chips than the corner store. With a portrait of Malcolm X on the door. While I'm eating MCs like a carnivore. Matter of fact, ease back before you get harmed. Ring the warning horn when I'm gonna perform. The first nigga that move or disturb the groove. I'ma have y'all flicks on the evening news. Play y'all part, get on y'all P's and Q's. lose. And when y'all think thought, be prepared to lose. Bring money to spend and somebody to lend, and some worthwhile money, not 20s and 10s. Get took for your tuck right in front of your hens. Who could've helped you, nigga? Not none of your friends. Because I put a black fist under your chin. Had your physical remains found under the pen. If I'm coming up in the place, I'm coming to win. Wasn't in it for a minute, now I'm dumbing again. Read G's, I y'all can chat with y'all. Please receive what I'm gonna get back to y'all, please. Cause you don't really wanna get clapped with all these, my man. You can take y'all strap when y'all leave. You see the squad coming to place, they all freeze. Ice cold, with his mellow cool breeze. MC's never show loyalty yet. Cool hurt, ain't never get a royalty check. I do work, no question, and bomb your set. I'm calm, collect, sharp like my name Gillette. R.I.P. my main Gillette. Until I touch the mic, y'all people ain't seen danger yet. I'm a decorated vet, I regulate and wreck. Never hesitated yet, I'm getting heavyweighted checks. If you would dare ask if I'm dedicated, yes. I spit live rounds that'll penetrate a vest. Nigga, take your seats, I'ma demonstrate a test. How to freak the beast, so gangsta fresh in a dump. From the east coast to Bangladesh, big bank, really gang smoke is dang to death. But hold tight, cause it's not over yet. I don't even feel like I'm not sober yet. And it ring like shots in the projects. New Year's Eve and it ain't even October yet. I'm a big bounty hunter like Boba Fett. Y'all more shell-shocked than a soldier yet. If the prize in my sights, then I'm going for this. Woo-woo, VG's be the ultimate. I'm the culprit, give me the bulk of this. Reset it on a magnetic ultra tip. Get down how you supposed to get. I got nothing to lose, I'm a killer with no regrets. I'm like young LL, cause I'm hard as hell. Make a nigga school face like Gargamel. Now I'm all out on my own like Patti LaBelle. Put the pimp game down on your mademoiselle. Keep the beat going, keep the beat going. Hold your flicks, I'm not for the photo ops. It's black, code name, y'all fit Kodo. Ock my twist like a ratchet in the auto shop. Since granddaddy, old DeSoto stopped and he got the caddy. I've been gladly serving. Any of y'all cats wanna act determined? Spit pesticides for rats and vermin. Seem like none of y'all chumps is burning. You're hopeless, and I'm a little better than dopest. Far from a brand new kid to show biz. Trying to hold on, maintain my focus. Coming out the room with a cloud of smoke that's rolling. With the punches, I survive and rock. Cause I keep the crowd alive. And the texture, my voice is coarse and kinda hoarse and gut. Like I'm throwing 1,000 knives, man. Party people, gather round. What we have here is a brand new sound. Reach for my waist, you hit the ground. You better duck when that awful sound goes. Yeah, that's what's happening in the parking lot. Yeah, that's what's happening on stage. The man at hand, a rule of school and reach and teach the blind and find a way from A to Z and B. The most, the boastful, loud and proud, the gain, the reign of remaining. The heat is on, so feel the fire. Come off the empire, order more higher. Level of death, one step beyond dope. The suckers all scope and hope to cope, but nope. Cause I can never let them on top of me. I play them out like a game of Monopoly. Let them speed around the board like an Astro. And send them to jail for trying to pass code. Shaking them up, breaking them up, taking them stuff. But it still ain't loud enough. So quest love, let the volume grow so I can flow. And we can kill a whole show cause party people, gather round. What we have here is a brand new sound. Reach for my waist, you hit the ground. You better duck when that awful sound goes. Yeah, that's what's happening in the parking lot. Boom, boom, boom. Yeah. That's what's happening on stage. I'm not designed to find a rhyme that's right on time. One step beyond and not behind a line. To separate star from divine, you can take it as a caution. Over warning sign, look for antonyms. Words I'm sending them, pronounce synonyms. Good like Eminem. You know the time when it's VG slicing. I turn the mic's last name into Tyson. My brain like a factory constantly creating material stitch by stitch. With decoration, the lyrics are fabric. The beat is a rhyming. My passion of rhyming is fashion designing. Never get sorted. These people want to support it, support it. If you didn't, then you couldn't afford it. Poetry full of surprise. It's like a game show, and my brain go, I do my thing, yo. Party people, gather round. What we have here is a brand new sound. Reach for my waist, you hit the ground. You better duck when that awful sound goes. Yeah, that's what's happening in the parking lot. Yeah, that's what's happening on stage. Beh, un altro passo, da Consolidated a Roots, passando per ora, sì, però insomma le band hip hop, vere e proprie band dei combo numerosissimo, quello, come quello dei The Roots, fra cui ci sono anche batterie, percussioni, bassi, oltre ovviamente ai sample e allo scratch del DJ. Però insomma, gli strumenti musicali, per quanto non facciano parte della, così, della genesi dell'hip hop, che era semplicemente il talk over sopra delle basi, i 33 giri fatti girare con lo scotch sopra per andare a trovare il sample giusto da screcciare per fare la base, per creare le basi, tutto in diretta, assolutamente una cosa difficilissima, Forse è meglio suonare uno strumento. Bisogna essere delle piovre, dei polipi. Vabbè, quindi lasciamo The Roots, East Coast. Loro vengono da Philadelphia, sempre di quegli anni, sempre fine anni 80 fino a così metà degli anni 2000, 6-7 anni fa, poi se ne sono perse le tracce, crediamo che abbiano un po' perso, diciamo. Show in the Netherlands, cold shoulders and frozen aortic valves. So I don't form pals, conform to norms. Il treno delle produzioni, quindi andiamo invece a folleggiare da un'altra parte. Questo lavoro qui, The Roots, era del 2005, se non andiamo errati. 2004. The Tripping Point. Dicevamo, andiamo a folleggiare. Già nelle scorse puntate avevamo modo di affrontare, abbiamo avuto modo di affrontare il discorso Mike Patton in una delle mille sfaccettature. Questa sera invece, questa notte, lo andiamo a trovare vestito dei panni del General Patton, giocando appunto sul suo cognome, sul precedente illustre storico generale, quello che voleva direttamente continuare la guerra e andare a invadere Mosca e l'Unione Sovietica nel 45. General Patton, against the executioner. Like I'm Devin, tired of my people fellin', we all sin, the devil winning, I tell them. Somebody gotta get their hands dirty and shoes muddy. I see things vividly, y'all vision is blurry. E qui le basi si spezzettano assai. Perdendo quindi il fraseggio, il ritmo, che è proprio quello che ascoltate qua sotto e che è la portante poi del talk over. Quattordicesima e quindicesima traccia, i titoli scritti piccolissimi, Kamikaze la quattordicesima, Wells Point di Stown la quindicesima. Your cut, and I'm a test. We're not done. Yeah. Check this out. Tell me you're rare,

Trip, 23:36 minuti primi. Dopo il lo schizofrenico General Patton and viene The Executioner. È una roba che non viene. Fucks like, do you know who I am? Fucks fail to understand, I'm like, eh. Two-letter text, translation, next. Skip that beat one like you see one, seen them all, get it. Have you the slightest idea? You're so trifling, second, I see you coming. I'm just sucking like, eh, my voice, eh. See my reflection, eh. Invited, excited, eh, eh. Who you think you are? E quando ancora la trap aveva da... Da affermarsi uscivano questi lavori qua, non questo in particolare che già è tardo. Battle Mess Pit del 2016 per quanto riguarda Death Grip. Wave them off, I wave them in. Gotta flick, I fuck them off, 'cause I'm them. Ma già dal 2010 essenzialmente poi sulla rete venivano già pubblicati. Insomma, loro erano dei provocatori assoluti. Mac MC Ride, The Kill, Andy Morin. Ghost like I'm out of focus, 'cause I'm covered with the most stripes. Make movement on my trajectory, anomalous like entropy. Make all things rispettivamente alla batteria, all'elettronica e alla voce. No, rispettivamente no, l'ho detto un po' a casaccio, però insomma. MC Ride, il personaggio nero, sempre tutto sudato. Felpa con, nera con cappuccio in testa. Loro invece sono West Coast. Firme contratti con Major, con etichette, e poi il giorno prima pubblicato su internet. Insomma, hanno fatti di scherzetti assolutamente scorretti nei linguaggi. Distruttivi, non nemmeno appunto vengono contemplati, ovviamente, perché sono abbastanza lontani nei suoni dalla trap, ma quanto la trap ha pescato da questo che viene considerato industrial hip hop o alternative hip hop, insomma, alternative rap. Ne rimanemmo subito affascinati. E ritornando più recentemente in casa Ipagac, ma quindi casa Mike Patton, ma nella fattispecie in questo lavoro ci troviamo ancora con una vecchia etichetta e non con la Ipagac. E cioè con la Hydra Head Record. Stiamo parlando di quello che forse è lo sperimentatore hip hop, comunque l'hip hop che ci piace di più in assoluto, il produttore che più ci ha fatto così, che più ci ha affascinato in questi anni. E stiamo parlando di Dalek, che univa quindi delle basi elettroniche, post-core, chi più ne ha più ne metta, delle basi lentissime, dilatatissime. Ha un cantato cupo, scuro, nero, nebbioso. Respect.

teach. Can teach. To illuminate just an even summons fall. This instrument. This instrument. This instrument. This instrument. This instrument can teach. This instrument can teach. It can illuminate. Yes, and even it can inspire. But it can do so only to the extent that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it's nothing but wires and lights in a box. Running, rushing, blood spilling, tears are pouring. It seems the well is never filled. Mentally exhausted, overworking, take another pill. Or to keep the owner of the corporation stacking billions. These corporations manipulating our daily lives. Got us exasperated, working through all our days and nights. Sacrifice your leisure time to end up at a 9-to-5 and work until you are deceased without a single moment for peace. Never still, it just keeps rolling down the hill. Nobody tries to stop it. They'll get a copy, get you killed. You'll be a trending topic. A cog up in the wheel, a sacrifice to the cult of death being built. Caught up in the matrix, virtual digital minds. We don't memorize phone numbers or directions when we drive. We don't even have to go shopping to get our food and buy things. We only push a button, we don't even have to try. Can't even lift an eye away from my phone. Talking to Instagram live just so I don't feel alone. Flooded my Twitter feed with my deepest feelings and thoughts. My page is public but my sense of conversation is blocked. I validate myself through followers just to feel important. Instead of living in the moment, I'd much rather record it. Nobody knows my first name but know my Snapchat handle. I'm just a millennial, you're trapped in social media standards. I see oppression within an effort. C-O-N to own the rights of my expression. C-O-N I see oppression influence the feeling. C-O-N to wipe out opinions beyond the meaning of conformity. Shelling out melodies at feverish frequencies, funding boardroom salaries that pay me an exposure. No penalties when they're late paying me. No benefits seen, just leans to lead the home foreclosure. Advertisement revenue, everything that you consume. More for them, less for you. They do all the sorting, trying to figure out ways to make you feel important while they keep robbing you blind, hold extortion. In some sense, that's the power of the internet. On the other hand, that's a perfect formula for the dark side. This is our generation's form of nuclear power. How we deal with this will be the stuff of history. Minuti primi, le frequenze di 87 e 9 della banda romana e laziale di Radio Onda Rossa, 25 o'clock. In versione alternative hip hop. E dopo Dalek avrete sicuramente riconosciuto, ovviamente se siete stati attente e attenti, la produzione doppia del 2019 di DJ Shadow. E quindi questo pendolare fra East Coast e West Coast. Conform. Fit Gift of Gab Latef The Truth Speaker Infamous Taz. ovviamente vi ricordiamo, come in ogni fase di questo febbraio, le mobilitazioni per il Kurdistan attualmente, che assumono una valenza ancora più pregnante, ancora più urgente, dato il devastante terremoto che ha colpito proprio il Kurdistan. Le zone della Turchia e della Siria e il Kurdistan iracheno e siriano e turco. Immagini di devastazione che ci ricordano quanto poi sia effimero. Combattere le guerre, in quanto poi la stessa nostra madre terra, chiamiamola così, è in grado di produrre delle devastazioni enormi, e già queste ci bastano e avanzano. Ricordiamo anche che la Mezzaluna Rossa del Kurdistan ha messo a disposizione un conto corrente postale, un conto bancario. Adesso non abbiamo esattamente le coordinate, magari le cerchiamo, fra qualche minuto ve le daremo, ma comunque è facile reperirle anche nella rete. Basta andare a digitare appunto Mezzaluna Rossa Kurdistan e c'è un banner che gira dove ci sono indicate tutte le coordinate per le donazioni che sono necessarie più di ogni altra cosa in questo momento, data la devastazione immane che ha causato questo terremoto, dicevamo, del quasi dell'ottavo grado, del 7.7, 7.8 della scala Richter. Immagini agghiaccianti, anche se ormai le immagini così hanno perso il... causa la spettacolarizzazione, qualsiasi senso. Comunque, insomma, fatto sta che più che le immagini contano anche le cifre dei morti, delle devastazioni, che delle persone disperse che ci sono. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Fascinated with the disturb my neighbor's red doors by pushing. Snow rat, I know. Snow rat, cut. Cock, snuck, cuss. Suck. Suck, suck, cunt, cock, fuck, and prick are not bad words. And I hate men who sit up. And fuck, and fuck, and fuck, and fuck, and fuck, and fuck. Dei villani il male non lo espelli, per questo invento degli eroi come Stanley. Sputo versi tipo un'autoterapia per la vita di chi amo, pronto anche a dare la mia. I buoni cadono come le mosche, non erano poi così buoni forse. Menzogne con le gambe corte vincono alle corse. Io ancora a caccia di risposte, un'altra buona notte senza la buona sorte. Non temo la morte, mami, so che fa parte dei piani. Sai che sarò forte, mami, no problema. C'è una falla nel sistema, ma non si sistema. Niente ormai mi fa più pena, fa la bella piena. Arrivo con un grosso carico, è un motivo valido. In mano un grosso calibro, dietro il calibro. Click, boom, bye, no panico. Giustizia non è fatta, ma la vendetta al suo fascino. Giustizia non è fatta, ma la vendetta al suo fascino. E siamo ancora in piedi, senza superpoteri. Ti ho superato ieri, ci vieni contro, crede. Capelli in faccia e sto seduto sui sedili di una El Camino. Sto in un altro posto quando rimo. Non esisto neanche, corteggiare il rischio inizia ad essere divino. Mi girano attorno ma non vengono vicino. Questo è il Ramadan, il digiuno purifica l'anima. Prima di rientrare in gioco e spaccargli la tavola. Con la fame atavica di una tigre con i denti a sciabola. Do i numeri o li faccio e cabala. Vesto alla pace, vivo extra large. Mi piace come a Chico e Del Debarge. Mentre provi a incrementare il bus, fammi il piacere di aumentarmi il budget e di darmi il cash. Un esercito di piccoli Harry Potter si mette sul mio piano, ma io sono David Copperfield. Se non mi uniformo fingono di non conoscermi. Il mio ingegno multiforme mi dice di dirgli di andare a fottersi. Arrivando gli specchi. lasciarsi trasportare vuoti, soffiare freddi come tramontana. La sicurezza del benessere dietro ad un cancello, la proprietà privata e le banalità ripetute al ritornello. Va tutto bene nella tua prigione d'oro. Hai una casa, una macchina, un lavoro, e ti accontenti di un pareggio, in fondo può andar bene. E ti suicidi in un parcheggio e ti esce l'acqua dalle vene. La vita è bella vista dietro le bugie, sa dove si tocca galleggiare sulle ipocrisie. Confesso di aver paura e chiedere anche aiuto, ma sto lottando contro dei fantasmi, ai fantasmi non ci ho mai creduto. La tua condanna è la speranza, la fede e la partita, una casa con giardino, un lavoro per la vita, le grate alle finestre per proteggersi dal resto, è un quieto galleggiare in cambio del proprio silenzio. La tua condanna è l'incoscienza di non credersi coinvolti e non cercarsi dentro, e non cercarsi dentro agli altri. E più la sconti più ti abitui ad una lenta resa, alla ricerca di una tregua da chiamare vita. La tua condanna è la speranza, la fede e la partita, una casa con giardino, un lavoro per la vita, le grate alle finestre per proteggersi dal resto, è un prezzo galleggiare in cambio del proprio silenzio. La tua condanna è l'incoscienza di non credersi coinvolti e non cercarsi dentro, non cercarsi dentro agli altri. E più la sconti più ti abitui ad una lenta resa, alla ricerca di un pacificato esistere fittizio da chiamare vita. 10 minuti dopo la mezzanotte, la furia. Dopo aver ascoltato io Calibro 35, il loro post momentum, un remix, diciamo, comunque il raccogliatore, una raccolta, un raccoglitore, sì, di quello che non era entrato dentro Momentum, e apre con quella prima traccia che abbiamo ascoltato, che è Stanley Alternate Version. Con la partecipazione di due MC. Che dovevano servire, dal momento che su Momento c'era la versione con Illa J. C'è gioia senza dolore, godere del sapore nuovo della vita, quando la scopri fragile, quando la tua maestra è una ferita. Se Patroclo muore, nel cuore resta un pugnale, non c'è un Ettore, non c'è vendetta da consumare, ricordi lacrime e sangue. E quindi Ensi e Gammon sul cielo che ride del tuo dolore, oh, hanno rappato su retorica che Stanley sempre spazio, un'alba nuova da zannare. Di emozione, onora il in attesa di procurarci l'ultimo lavoro dei Calibro 35. Altra costante da queste parti. Morte onesta, se avrò. Invece la furia forse sarà. Ma in bocca salterò la vita ardito, morte alla morte. L'unica traccia di questa scaletta, di questa playlist che presenteremo anche la prossima settimana. La prossima settimana, ricordiamo, mercoledì cade di 15 febbraio, una data fatidica importante per noi. E quindi saremo in studio con Caronte e Conte Max. Morte alla morte, morte al dolore. Per ripercorrere un'epoca che è un po' la nostra epoca. Quando il sudore. E che comunque abbiamo attraversato in qualche maniera anche insieme, dai lontanissimi anni 80 fino ad oggi. Bocca, ingoia il sangue sulle labbra, il gusto di vendetta. Per ricordare colui che ha dato la scintilla iniziale per dare vita a tutto questo. Degli amici, cioè il nostro Roberto Patata. Pure che non dici, sei sempre da soli a ricucire cicatrici. Cercheremo, vediamo se riusciamo a organizzare di trasmettere già dalle 20 fino alle 21, poi lasceremo lo spazio. Dimenticate i sogni, gli sbagli servono, ma restano legati alla gola. A Elettro delle sue proprie tecniche di trasmissione per poi riprendere i controlli alle 22.30 come al solito. Resta solo neve. Fino a che ci regge la pompa. E quindi dicevamo, forse la furia andrà di nuovo in onda probabilmente, e probabilmente anche su plastica, su vinile. Morte alla morte, morte al dolore. Per ora ci siamo ascoltati Spettri. Da loro La via del Ronin. Noi invece stavolta, invece di ritornare sulla East o sulla West Coast, rimaniamo invece in Nord Europa, in Olanda per la precisione. Usciva, dato che abbiamo così aperto con la furia le danze del crossover, a una delle band che così un po' cripticamente, un po' nelle catacombe, ha fatto nascere il crossover. Armband Dance Squad. Pace armata per le strade di questa città, qui dove si va, prenestino, zombie, vagabondi, guerra, la normalità. Mi tra carichi di noia, giorni ingrati, giovani deviati, for the rap, soldati. Troppo rap per il punk, troppo punk per il rap. La furia suona al core sul buncia. Suona lento come... Lavoro del 1993 questo. Nuovo stile, ostile, orecchie reazionali. Planet Ultra, che oltre a contenere la omonima Planet Ultra, cuori che pulsano dentro gabbie di plastica, fumaci un black flag, fini pass, out of pain, tu non capisci il nesto, cerchi in vano un senso. Contiene anche questa Brass Code, quinta traccia, ti conta solo chi sei, a piena voce, microfono, che ci andiamo ad ascoltare. Urlano, bruciano come bombe. Onda Rossa, 25 o'clock, Brass Code, Urban Death Squad. A piena voce, microfoni che squarciano la notte. Now on the boom bap, the boom cap, I stick like tree sap. Tight, ragged, night, light, two, four, clap. Jaws. Whack, whack. This brick, which is gripped by my fingers, which shoot out from my hand, which is fastened to my arm, that meets up with my shoulder, that sits well below my head, that surrounds my brain, which is tied up with thoughts of resentment, fear, and loathing because of your using me and your road to wealth and power, will crash through your picture window and kill you. We gon' put you in the squeeze. Ran by some masters of Mac mechanics. We got schools where the facts are banished. We got scams where your stacks are vanished. And the hospital is gon' cost you racks or panic. All the gangsters throw your triggers up. All the stoners throw your flickers up. All the drugs throw your liquor up. All the bank tellers stick them up. Teach them babies how to grip a buck. When this hits the streets, it's thunder with pieces. We'll show where the beast is. Make sure it deceases. They smolder with speeches. We show to the leeches. Call off the polices. This ain't where the thief is. Janitors work all night like Dracula. Burger flippers grab your spatulas. Managers get your Acuras. Big bosses got your sack because we'll put them in the squeeze. Poverty has just gone platinum. Unemployment checks need to come with the gat in them. Changing leather with slave master still cracking them. This is where I'm scatting from. Listen to the battle drum. We all got our shackles on. Ladies, shoot your deuce deuces. Bankers tip your masseuses. Wardens tighten up your nooses. Motherfuckers make noise if you bought your clothes boosted. The earth is composed of space and atoms, and controlled by some pimps without Stacey Adams. But one day they gon' taste the cannon when the people rise up and make the motherfuckers face the dragon. Mercenaries show your paychecks. Homeless folks show your blankets. Rich folks throw your banquets. Tell officials what to say next, cause they won't be at ease when we put them in the squeeze. We gon' put you in the squeeze. We gon' put you in the squeeze. Yeah. We gon' put you in the squeeze. Cause they vote with their guns. Cause they vote with their guns. Cause they vote with their guns. Cause they vote with their guns. Cause they vote with their guns. Cause they vote with their guns. Cause they vote with their guns. You know they vote with their guns. E agli inizi degli anni 2000 si sciolgono Rage Against the Machine e così quelli che erano i vecchi componenti, a parte Zack Della Roca che faceva l'MC su i Rage. Tim Comerford, Brad Wilk e Tom Morello mettono insieme una nuova band, il cantante Chris Cornell. Si chiama Audioslave, è un suono comunque abbastanza distante da quello dei Rage Against the Machine, più sincopato. Così costruito apposta sul parlato di Zack Della Roca, sull'urlato. Si costruisce quindi un altro suono per un altro. Per un'altra di quelle voci fondative del grunge degli anni 90, Chris Cornell. Evidentemente però Tom Morello non risulta troppo soddisfatto poi da Give it up for them gangsters. Degli Audioslave che ebbero comunque una grande diffusione, anche più più così ma mainstream rispetto a Rage Against the Machine. Tom Morello vuole ritornare a al cantato MC e quindi produce questo progetto che crediamo faccia un solo album, si chiamano SSSC con un nome evocativo, Sweet Sweeper Social Club. Questo è il risultato. For them killers, give it up for them gangsters. One time for the killers, double up for them gangsters. Well, I wrote this for gangsters while I sprinted through your backyard. Not for them coppers and criminals, they just act hard. Tony, siamo nel 2009. When he reloaded, slaves forgot that they had back scars. Hey, mama, Mr. De Niro, what kind of gun is that? Can you look more like a menace that you now running back? Hey, sister, so what's gonna say she got all the money stacks? Long as his list never looks at the real maniac. Slap for them killers. E abbiamo ascoltato The Squids. For them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Can you clap for the killers? Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Out of me, mentality or application of technique forever shall constantly expand, leaving suckers stranded one step behind the program and incomplete. Nah, you ain't frontin' on the article, don't damn, it's hot, gotta drop the scroll, it's coughing smoke, pause, react, slow, but still got this rhyme flow by the throat, pioneer of erect concertos that compose part of a blossom that grows twofold times ten, stimulating to the women and the men. So y'all above all, first of all, my mission is to be clear. Secondly, slide over so my brethren can slide up from the rear. Can't make sense out of me. Musically, that speaks for itself, disorientation. In case we don't understand. Disorientation. Musically, that speaks for itself. Still, got this rhyme flow by the throat. Live like wet fingers in the socket. When I let those fly like flags in the wind. On this way, they impact every aspect of my projection. Imports direct thoughts that leapfrog with phrases. Betrays no hint to agonize effort for beam. It can't be no other. The upper cross exalted start in the frame. A stud like diamonds. You barely a big fish in the puddle, grabbing the mic with no fingers. Reactions. The fusion and fission in collision. Stepping up like a podium thinking you dope. Your residue I rinse like soap. Leaving not enough for you to shove under a fingernail. Rubbing me wrong, got carpet burn. Slang like Selena, crushed like croutons. Cut up competitors like coupons. Dry as a bone like a desert who misses the rain. Some bullets I enjoy spraying in my foot. Dancing on your ass. I'm neither violent nor lily white. I just prefer to get like Ben Hart and run you over tracks like chariots. Ignorance is high, as if it reached eternity in airborne. Weak minds are in flight, a sentence goes on. Lies convert. Hearing is receiving and open like pores in every orifice. Equilibrium and vertigo shift the two-legged tables. Disorientation ground, a color of sound, a burnt bridge. Musically that speaks for itself. The blank slate, the fire spit it. Fire spit it. The blank slate. Musically that speaks for itself. itself, disorientation. In case we don't understand, disorientation. Physically, that speaks for itself. Still, got the rhyme flow by the throat. High priest, extracurricular, illustrator. Fuck a president, nominate priest for a dictator. Separate you like binary fission. Envision division of good and evil. Believe that you will perish if you don't choose. Confuse over which side of the crater will the creator place you. In case you don't understand, remember Iraq, remember Iran. Remember dismembered bodies and MCs and SPs melting at ground zero. Adjust your vision, grand exquisite, lyric, verbalizer. Witness the fire, break down rhymes to enzymes in my saliva. Deliver, I'm the liver, futuristic describer of cities enclosed in plastic bubbles. You spell trouble, P-R-I-E-S-T, my E-S-P, harder than SP-1200 snare taps over bear tracks, snap like bear traps. Did you hear that? You weren't listening. In case you don't understand. Ignorance is high. You can't relate even when I say it. Era il 1997 quando esordiva Terranova il combo di collettivo di musicisti tedeschi, musicisti insomma, manipolatori, DJ, rapper. In questo caso era proprio un DJ mix e si chiamava appunto DJ Kicks Terranova. Lontano 1997, un discone veramente. Lo abbiamo consumato, è lunghissimo peraltro, in macchina a casa, qua in radio. Corre la terza, la quarta traccia, abbiamo ascoltato per intero la terza traccia che si chiama Priest. zone, I'ma spit my flow. Trip the lights, fantastic disco show. Hit the move, fall back in the bliss withdrawal. And not worry about friends or foe. Oh, or just pop the X, maybe have lots of sex. Hop the next flight to a spot that's less saturated, so it's no need to stop the press. And throw back in that Michelin S. Yes, as if the groove is on, I'ma spit my flow. Trip the lights, fantastic disco show. Hit the move, fall back in the bliss withdrawal. And not worry about friends or foe. Oh, as if life is slow and the groove is on. And watch trend take shape in the musical form. Anything I'm on, hot, not usually warm. Make it hard, you refusing the song, yo. Come on, close it in, close it in, close it in. Let it begin. Life is slow when the groove is on. Life is slow when the groove is on. Life is slow when the groove is on. Trip the lights, fantastic disco show. Life is slow when the groove is on. Life is slow when the groove is on. Life is slow when the groove is on. It's one right here. Ancora Groove Armada era erano dei manipolatori stilosi ma comunque molto interessanti. Grandi dischi di chill out. Ultimamente si sono un po' persi, insomma, delle produzioni disco nemmeno troppo convincenti e che comunque in questo spazio hanno poca residenza. Nel frattempo, appunto, siamo usciti così ad avere quello che è il banner terremoto in Turchia e in Siria per la mezzaluna rossa Kurdistan. Vabbè, non ve li sentite qua, è qua sotto. Sandy Denny ricampionata. Eh sì, interessanti infatti. Questa era Love Box per quanto riguarda la Groove Armada. Dicevamo, così per non spezzettare troppo il discorso, gira questo banner e così un po' stucchevole dare per radio Libam, insomma, Comunque ci sta un IBAM e una donazione immediata tramite PayPal, quindi andate a cercarlo sulla rete, è facile trovarlo, andate a digitare Mezzaluna Rossa Kurdistan terremoto in Turchia e in Siria. So your eardrums are rattling. Murder them, I murder them. In the competition, because I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Murder them, I murder them. In the competition, because I never heard of them. I murder them, I make them hurt again. Word. You're boundless and mindless, vagina who is rhymeless. The shit plays out in a month, the law goes on timeless. You're on the decline list, aggravated and shineless. I've designed this for the lost who need to find this. The fine baby, and maybe you need someone to lead you. Stop acting like an infant, I'm tired of force feeding you. You can't keep running from the destiny, it's me and you. It's your own soul, your own ghost that keeps beating you. Murder them, I murder them. In that competition, I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Murder them, I murder them. In that competition, I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Word. Fuck the volume, so get it from. This is just the warning before I get the battling. Unsensible actions for your tractions. I'm facing the methodical serial rhyme killer. Slick beats periodical. You're in a hostile, colossal situation and it's possible your eardrums are bust, bust, bust from penetration of lyrical flows. You cynical hoes are speechless. Murder them, I murder them. In that competition, I've never heard of them. Psychological, chronicle, audio visionaries. Concern to realize drama when the fucking streets is staring. Diabolical, radical is the topic you'll witness. The rebels raising the levels on melodical rhythm. Doses of venom, make the whole not explode your road. Cause if you lose control, you end up in the hospital. Incomprehensible, unconventional, no, no, more eventual tactics. Murder them, I murder them. Competition, I've never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Murder them, I murder them. In the competition, I've never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Get work, get work, get work, get work, get work, get work. Up in the bleachers in the penthouse front, stove burning a half a bird. You make out their legs is burning. We Meskovich, green pea soup, Korean coupe in the front. With 12 rich horns ready to stunt. Roller blunts, ladies, you string the pussy ring. Gleamy, my man, honest 700 grand out. Breathe easy, then the phone ring. Bling, bling, bling, ayo, king. Two more ice packs coming. 40 bundles of onion. Rolling reefer to the maximum. Sax playing, lay on the drums. The Jeffersons on, I'm ready to come. She looking at me with a relevant stare. Know my pocket's the only hair to come up out the hood, say here. Piss the Merlot out, twirl my little thing downstairs. Cause anything other than that, we all millionaires. Can't forget that, the Ziplocs is get back. None of that overnight shit, we selling seconds, Paul, head back. Sean and yo, it's stupid hot, take the shotty with you. You and Ball can't make it pop, them niggas is from the golden era. Lemonade leathers who don't give a fuck if they die, they more high. They soldiers in the streets, they rebels. Bubble for motherfucking money with bitches, rockin' stilettos. And when the drought hit, they on their shit. The sheeps come out loving the sea cycle powers. They cowards, stay off the fucking flowers. Yeah. Rocking the skull full of waves, four frames with his chain, Jamaican accent. Fresh out Toronto, we black skin. Young Black Panther MO, love Whalen Reynolds. He on the crack spot, we know it as the trap shop. Adidas down, Sterling Brown. Uncles is traffickers, lifestyle growing spectacular. Green grass smokers with green hash. The niggas don't need cash, they only play fresh and rock mean glass. The dream stash only when the good boy lasts. These is all ruthless niggas who don't seem glad. Left the ass in the back of the gas station. Never no shorties in it, it's only Glocks with mags. Here the feds come, niggas is bag. No give them his bag. These are ninjas in rags, rockin' flags. chills of a line. Just look into my eyes, see the girl that don't faze me. You know it took more than love just to raise me, but sometimes I feel like a dog on a chain. My blood, sweat, and fears never change or contain. I on a pleasure train ride with cocaine eyes. Just follow my soul and go with this load on my back. If I chose another path, would you roll? Now you're fucking with a strange eye. As I walk in the light, I'm just shining. When I get on the mic, I'm just shining. All day and night, I'm just shining. Say what I have to say, give me faith when I'm rolling past. Roll with no cash, many times with no weed to last. Bleed the past, feeling the wrath. Stop, greet them and dash. Drop down with my feet in the grass. Seeds and stash, crying out to the sky, yelling freedom at last. So many roads if I chose, give me more, leaving the past. Free from the payback, never hold back. See me rise when I come back. Give me time, let me lay back. Come on with me to the steeple where we play at. My people better stay back. Hard times and grief, I'll never stray back. Truth, fire, and God, I'm going way back. As I walk in the light, I'm just shining. When I get on the mic, I'm just shining. All day, all night, I'm just shining. Till it's time, never let up. In my mind I was set up, put my head up. Confusion got me fed up. Another vision in my mind to wake a jet up. I know the taste of blood, put your lead up. Coming from the front line on the way up. Bleed wine on my sleeve from a full cup. How many times in my mind have I crossed the line? I gotta rewind and find every dream of mine. In a flash if I freeze in time. We never died together, so I'ma stay up. Just give me the mic and let me go. No one is gonna test my flow. No more living in fear behind the year. My mind is clear, but salvation is here. As I walk in the light, I'm just shining. When I get on the mic, I'm just shining. All day, all night, I'm just shining. Oh, tocca proprio in questo momento all'orologio di Onda Rossa, la una di giovedì 9, credo che siamo al 9 di febbraio 2023. Quindi brevemente avete ascoltato in questa conclusione di 25 O'Clock tratto dalla colonna sonora di Blade 2, Cypress Hill, Ronnie Sides, Child of the Wild West e poi Black Rock. Una produzione grazie alle basi di e collaborazione fra The Black Keys e vari rapper. E quindi da Black Rock abbiamo ascoltato la sesta traccia, Stay Off Fucking Flower, Rick Won MC. La Shining di Shiner Massive, uno di quei dischetti di cui siamo orgogliosamente così in possesso. Ovviamente ormai si trovano tranquillamente in rete, ma all'epoca ce n'erano ben poche copie qua da noi. Formazione Shiner Massive sempre dalle parti di New Jersey. E poi in conclusione con Jasufi, che ancora stiamo ascoltando sotto le nostre parole, Nichols e Dines. Con Jasufi, un personaggio ibrido, diciamo, se possiamo usare un appellativo di questo genere. Nasce da madre messicana e padre etiope statunitense. Vive nel deserto, ha prodotto 3 lavori di cui questo. Mazzal è il terzo e ultimo della produzione. Con questo vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui, non prima di avervi ricordato innanzitutto sabato 11 febbraio Roma, piazza dell'Esquilino, 14:30, libertà per Abdullah Öcalan. E a maggior ragione per dimostrare la solidarietà di Roma e di tutto il paese per quanto riguarda il disastro, il disastroso terremoto che ha colpito proprio la Siria del Nord e la Turchia, in altre parole i territori curdi. La programmazione, dicevamo, in diretta finisce qui, si vi terrà compagnia la compagna automatica Sonata con le sue bizzarre selezioni musicali e le repliche di quanto autoprodotto da Radio Onda Rossa, trasmissioni, corrispondenze redazionali, eccetera. Si riprende alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina che vi terranno compagnia fino all'ora di pranzo. E quindi con le iniziative per la liberazione di Alfredo Cospito e la battaglia contro il carcere, il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Dalle 14 alle 15 si riprende con tutta scena cinema, la trasmissione dedicata al cinema di Radio Onda Rossa, Attica Blues invece alle 16, oltre alla Black Music. Alle 17 le Schiene del Soul, alle 20 la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa. Alle 22 chiudono le danze, i cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto, il nostro abbraccio più importante e più caloroso va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. Mercoledì prossimo, dicevamo, speciale con ospiti Caronte Conte Max in studio per ripercorrere un po' gli anni che ci hanno portato fin qui e ricordare la figura di Roberto, scintilla creativa di questo spazio, di questo lungo discorso che conduciamo nell'etere da tanti e tanti anni. Bella a tutti e a tutte, allora dai, ci risentiamo mercoledì prossimo, daje. Ce ne andiamo sotto la luna comunista. Let it begin, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. I'll share our dreams under a communist moon.